tu vestita di fiori. O di fari in città, con la nebbia o i colori, cogliere le rose a piedi nudi e poi, con la sciarpa stretta al collo, bianca come mai. Ma l'arcobaleno era in fondo ai tuoi occhi, quando sotto al tuo seno l'ira avvelenava il cuore tuo, perché tu vedevi un'altra donna avvicinarsi a me. Prima ancora che io capissi e riscegliessi te, tu eri bella di pioggia, con lo sguardo stravolto da una notte d'amore. Siediti qui, non ti chiedo perdono perché tu sei un uomo coi capelli bagnati. So che capirai, con quei segni sul viso. Mi spiace da morire, sai. Coi tuoi occhi arrossati, mentre tu mentivi e mi dicevi che ancora più di prima tu